Sicuramente sì, perché c'è dentro questi due libri un'ansia distonica. Per un verso sono libri di grandi viaggi e di grandi libertà in luoghi però terribilmente chiusi e claustrofobici, come può essere un'isola, come può essere un sommergibile. E in entrambi c'è questa ansia di liberarsi degli altri, ma nello stesso tempo il desiderio di stare insieme agli altri. E quindi c'è questo senso di incompiutezza che trasuda sia dal primo che dal secondo. E poi nella conclusione del secondo, quando Nemo muore e di fatto accetta la sconfitta della sua esistenza, ma lo ascolteremo, c'è la crisi vera, cioè non c'è realtà possibile fuori dagli altri, dall'insieme delle persone che ci circondano. Cioè anche un romanzo appunto come 20.000 righe sotto i mari, con questo Nautilus che era una comunità che il Capitano Nemo voleva segregata, voleva in opposizione, lo dice esplicitamente, in opposizione al mondo esterno, è comunque una realtà che ha bisogno del mondo esterno, come tutti noi abbiamo bisogno delle relazioni. Beh sì, lui è un uomo che chiude con la legge degli uomini, cioè non c'è espressione più dura per chiudere con l'umanità, anzi invita in maniera abbastanza perentoria il povero professor francese a non parlargli della legge degli uomini. Quello è un capitolo per lui definitivamente chiuso. Signor professore, io non sono assolutamente quello che voi chiamate un uomo civile. Io ho rotto i ponti con la società intera per ragioni che io solo ho il diritto di giudicare. Io non obbedisco affatto alle vostre regole e vi invito a non invocarle mai in mia presenza. Lui vaga per i mari, ha raccolto immensi tesori, finanzia movimenti di liberazione, li potremmo chiamare adesso, e nutre un odio viscerale per un paese che non scopriamo con 20.000 leghe sotto i mari, perché lui lo confesserà solo alla fine dell'Isola Misteriosa, che è la Gran Bretagna. Lui è un importante principe indiano, a cui la famiglia viene sterminata dagli inglesi, e nutre un odio profondo per gli inglesi e per il mondo, tant'è vero che i momenti di costrizione di cui abbiamo sentito sono i momenti in cui lui decide di scendere in guerra. Ecco, forse c'è proprio in questo paradosso del Capitano Nemo questa tensione alla modernità, però c'è anche un odio profondo, c'è anche appunto l'altra faccia della medaglia. È in fondo un'umanità nel Capitano Nemo esaltata alla massima potenza, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, e in questo pezzo si propone come novello Faust, no? In fondo cerca di stringere un patto con il professore dicendo: io ti levo la libertà, ma hai scritto un trattato, ora io ti farò scoprire tutto quello che tu non avresti potuto sapere. C'è un passo dove il professore mette in discussione e sulla stessa bilancia la libertà, e quindi la relazione con gli altri, con l'ansia del sapere. E poi fa un patto leale, perché al netto della costrizione nei momenti di guerra, i tre naufraghi sono liberi di tentare l'evasione, non gli viene impedito di studiare o di tentare di evadere, tant'è vero che poi alla fine riescono a farlo. Anche perché il Capitano Nemo era convinto comunque di poterli tenere sotto controllo. Forse era convinto, rispetto al professor Aronat, di tenerlo sotto controllo, sotto controllo culturale, cioè la curiosità dello scienziato doveva far premio alla voglia di libertà. Nella lettura del testo integrale di 20.000 leghe sotto i mari ci sono pagine e pagine di descrizione di molluschi, famiglie, generi, tipi, anche abbastanza pesanti da mandare giù. ma nel confronto con la natura più avversa, il capitano Nemo sceglie il confronto fisico, sceglie di non mettere distanza fra sé e il suo nemico, e questo confronto con la natura avversa, i polipi o i calamari giganti, in altri momenti sono i ghiacci, in altri momenti sono il Maelstrom o il vulcano che distrugge l'isola misteriosa, c'è un limite, no? Il tema vero è che nel rapporto fra l'uomo, le sue capacità tecnologiche e la natura, in tutti e due i libri il limite posto dalla natura è un limite invalicabile. Il Nautilus era ritornato sulla superficie delle onde. Uno dei marinai, piazzato sui gradini più in alto, stava svitando i bulloni del boccaporto. Li aveva quasi del tutto allentati quando il pannello venne divelto con una violenza estrema, evidentemente risucchiato dalla ventosa di un tentacolo del polpo. Subito una delle sue lunghe braccia si insinuò come un serpente nell'apertura. Con un colpo d'ascia, il capitano Nemo troncò il formidabile tentacolo, che scivolò sulla scala continuando a contorcersi. Mentre noi ci spingevamo gli uni sugli altri per cercare di raggiungere la piattaforma, altre due braccia, sferzando l'aria, si abbatterono sul marinaio posto davanti al capitano Nemo e lo sollevarono con una violenza incontrastabile. Il capitano Nemo lanciò un grido e si slanciò fuori. Noi ci precipitammo dietro di lui. Che scena! Il disgraziato, preso dai tentacoli e trattenuto dalle ventose, stava in bilico in aria, secondo il capriccio di quell'enorme proboscide. Si agitava, soffocava e gridava «Aiutatemi! Aiutatemi!» L'infelice era perduto. Chi poteva strapparlo a quella stretta poderosa? Ma il capitano Nemo si scagliò sul polpo e con un colpo d'ascia gli troncò un altro tentacolo. Il secondo lottava con rabbia contro altri mostri che si arrampicavano sulle fiancate del Nautilus. L'equipaggio si batteva a colpi di ascia. Con Sail, il canadese ed io affondavamo le nostre armi in quelle masse carnose. Un violento odore di muschio impregnava l'atmosfera, era orribile. Per un istante credetti che quel disgraziato, preso dal polpo, poteva essere strappato a quella potente suzione. 7 braccia su 8 erano state troncate. Uno solo, quello che brandiva la vittima come fosse stata una piuma, si torceva in aria. Ma nel momento in cui il capitano Nemo e il suo secondo si precipitarono contro di lui, l'animale sollevò una colonna di liquido nerastro, prodotto da una borsa situata sul suo addome. Ne fummo accecati. Quando la nube nera si dissipò, il mostro era scomparso, e con lui lo sfortunato marinaio. Con quale rabbia allora ci gettammo contro quei mostri! Eravamo fuori di noi! 10 o 12 polpi avevano invaso la piattaforma e i fianchi del Nautilus. Alla rinfusa ci scagliammo nel mezzo di quei tentacoli serpentini che sussultavano sulla piattaforma, tra fiotti di sangue e inchiostro. Sembrava che quei viscidi tentacoli ricrescessero come le teste dell'idra. La fiocina di Ned Land a ogni colpo si immergeva nei glauchi occhi dei polpi e li bucava. Ma il mio audace compagno fu improvvisamente rovesciato dai tentacoli di un mostro che non aveva potuto evitare. Il formidabile becco del polpo si era spalancato su Ned Land. Lo sventurato stava per essere spezzato in due. Mi precipitai in suo aiuto, ma il capitano Nemo mi aveva preceduto. La sua ascia scomparve tra le due enormi mandibole e, miracolosamente salvo, il canadese, scattato in piedi, affondava la fiocina tutta intera fino al triplice cuore del polpo. Mi dovevo questa rivincita. Ned si inchinò senza rispondere. Il combattimento era durato un quarto d'ora. I mostri, vinti, mutilati, colpiti a morte, abbandonarono la lotta e scomparvero sotto le onde. Il capitano Nemo, rosso di sangue, immobile presso il fanale, guardava il mare che aveva inghiottito uno dei suoi compagni e grosse lacrime scendevano dai suoi occhi. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico. Pagine per il futuro. Riprendiamo con le avventure del capitano Nemo, questa volta nelle pagine dell'Isola Misteriosa. Prima però... Prima di andare sull'Isola Misteriosa, forse è d'obbligo anche fare un paragone tra l'oceano e il sistema finanziario attuale. E allora l'oceano è proprio sulla base di quanto diceva adesso. C'è in fondo un'etica della persona, un'etica profonda che anche dove

È un po' diverso da Lost. È un altro luogo chiuso, no? In fondo non è diverso dal sommergibile ed è un altro straordinario libro di viaggio. Quattro persone più un cane vengono lasciate dall'aerostato sull'isola. In realtà le persone diventano cinque, ma le quattro si salvano perché una delle cinque viene sbalzata via dal mare e l'aerostato riesce ad arrivare sulla terra. E la persona che sarebbe dovuto morire è l'ingegnere Cyrus Smith, che incredibilmente viene trovato illeso sulla spiaggia nonostante la molteplicità degli scogli che affioravano. E quindi il libro inizia con un apparente miracolo e totalmente distonico rispetto a quello che è il percorso poi del libro e di Verne, dove tutto ha una spiegazione assolutamente ragionevole e razionale. E però lì l'ingegnere non ci poteva stare, non sarebbe potuto arrivare da solo lì. E quindi il libro muove sostanzialmente quasi come fosse un libro giallo. Si addensano uno dietro l'altro i misteri e il lavoro dei naufraghi ha due dimensioni. La prima dimensione è quella di costruire un luogo ideale e riusciranno a fare di tutto, dalla nitroglicerina all'allevamento dei mufloni, qualsiasi cosa, ma l'altra grande ansia è quella di comprendere il mistero che aleggia sull'isola, perché ci sono una serie di cose che succedono, dall'uccisione dei pirati al farmaco per il giovane Harber alla salvezza dell'ingegner Smith, che non hanno un senso logico. Sì, perché appunto questi naufraghi, se ne ammala uno di loro e casualmente trovano proprio il giorno in cui aveva la febbre più alta sulla spiaggia una bottiglia di chinino. Sì. E quindi e ovviamente si capisce alla fine che c'era lo spirito del capitano Nemo quando poi tutti questi elementi vengono ricondotti alla presenza del capitano Nemo, che sorvegliava all'istanza questi naufraghi perché voleva forse trovare un nuovo equipaggio o aggiungere un altro equipaggio. Poi alla fine capiremo che erano gli ultimi giorni del capitano Nemo. Sì, il capitano Nemo ha la sua base nel vulcano spento dell'isola misteriosa, ha perso tutto il suo equipaggio, è rimasto solo e sostanzialmente accudisce e assiste questi signori. E li accudisce e li assiste perché vede in loro rinascere un germe di una società che ha un equilibrio, che è giusta, che prova a trovare in se stessa la forza per reagire a una situazione assai sventurata, perché comunque si trovano da soli in un lembo di terra fuori da qualsiasi rotta. Cioè una società per forza solidale, in fondo. Per forza, no, perché c'è una intanto si parte dal fatto che c'è una comunione di intenti fra i cinque, no? I cinque sono prigionieri nordisti in un campo sudista e che scappano dal campo sudista, quindi hanno fatto una scelta di campo fra la schiavitù e la libertà, hanno scelto la libertà e questo è il tratto culturale e politico che li contraddistingue. E tra di loro c'è un'assoluta parità in termini di trattamento, ma c'è chi per capacità tecniche e scientifiche le guida, che è questo straordinario ingegnere che riesce con le cose della natura e le cose che il capitano Nemo fa arrivare in una cassa, arrivato a un certo punto, arriva a sopravvivere e a vivere bene. Però anche qui c'è il tentativo di escludere l'esterno. Loro riescono a costruire questa straordinaria casa in granito, arrivato a un certo punto decidono di farne un'isola nell'isola, cioè di circondarla con un fossato per escludere i pericoli esterni, ma nello stesso tempo c'è questa ansia, questa voglia di fare di quest'isola un pezzo degli Stati Uniti e quindi di ritornare a casa. Allora qual è, andando verso appunto la conclusione purtroppo di questo dialogo, quello che possiamo cogliere da questi personaggi, da queste realtà, da queste vicende, dalla passione di Verne per la fantascienza, per i viaggi, per le emozioni, per le scoperte, per veramente andare alla ricerca del mondo? Cosa ci insegnano per noi adesso in questa situazione? Ovviamente un po' di crisi finanziaria, un po' di crisi economica, un po' di crisi anche morale. Ma se lo rileggiamo oggi con quel poco di esperienza che uno può avere a 50 anni, non c'è una tana che ci salva. In fondo l'isola misteriosa e la tana di Kafka non sono molto diversi. Non c'è, non esiste. Comunque il bisogno dell'altro ci porta a doverci confrontare con una complessità che non possiamo ridurre alla semplicità apparente di un'isola spersa nell'oceano. La conclusione più personale è un po' eccentrica, probabilmente, è il titolo di coda di Mediterraneo di Salvadores. In tempi come questi la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Il capitano Nemo non soffriva, ma si spegneva. Il suo nobile viso, pallido per l'appressarsi della morte, era sereno. Ogni tanto dalle sue labbra affioravano parole inafferrabili che si riferivano a vari episodi della sua singolare esistenza. Sorrise, di quell'estremo sorriso che continua anche dopo la morte. Qualche ora dopo, i coloni mantenevano la promessa fatta al capitano. Cyrus Smith e i suoi compagni lasciarono il Nautilus. Il meraviglioso salone, sempre inondato di luce, era stato accuratamente chiuso. La porta di lamiera del boccaporto venne quindi sigillata. Poi i coloni salirono sul canotto ammarrato a fianco del Nautilus. Si portarono alla poppa del sottomarino. I rubinetti furono aperti. I serbatoi si riempirono. E il Nautilus, affondando a poco, disparve sotto l'acqua. Ma i coloni poterono seguirlo ancora attraverso gli strati subacquei. La sua potente luce rischiarava le acque trasparenti, mentre a poco la cripta ritornava oscura. Poi quella vasta effusione di radiazioni elettriche si oscurò del tutto, e il Nautilus, diventato il feretro del capitano Nemo, riposava sul fondo dei mari. 20.000 leghe sotto i mari e L'isola misteriosa di Jules Verne. Intervista a Giuseppe Mussari di Gianfranco Fabi. Voci di Matteo De Moiana e Filippo Renda. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la settimana prossima.